Sugar Sugar, quindi parliamo di qualcosa di dolce, ve l'ho detto, il nostro Davide Paolini oggi ci vuole portare a mangiare dolci, sono molto contenta, ciao Davide! Ciao, buongiorno, buongiorno, beh sai, i dolci come Carosello riportano indietro a tutte le persone, forse tornano indietro, si torna indietro, ma molti continuano a mangiare dolci anche da grandi, quindi il dolce è tutta per tutta la vita. Ci fa stare bene, consolatorio, ci tira su di morale. È molto coccole. Ma sai, io volevo parlare di dolci anche perché dopo il fenomeno degli chef in televisione, che io così non è che amo molto, però ora è il momento dei pasticceri. Perché un talent che c'è stato tempo fa, e da quel momento sempre più appaiono pasticceri in televisione, poi c'è un personaggio che appare anche a MasterChef che fa giudice severo, che si chiama Iginio Massari, è un po', come posso dire, il protagonista tra i pasticceri, è un po' il personaggio numero uno, certo. È il modello anche per molti ragazzini, perché ora ho sentito anche, conosco anche un ragazzino di 12 anni, il quale ha come modello Iginio Massari, quindi... Sì, addirittura ha la fotografia in camera. No, addirittura. Quindi non dico altro. Sì, sì, ti posso garantire perché conosco questo ragazzino, per cui è molto... Si chiama Luca questo Ciao, ragazzino. Ciao Luca, beh, sì. Insomma, un futuro pasticcere, ottima sì, scelta futuro, di carriera. Un futuro pasticcere perché già l'idea è chiara. Dicevo, quindi, Gino Massari è un po' il personaggio, ma è il numero uno anche a livello internazionale, uno molto conosciuto. Ecco, entrare nella sua pasticceria, che si chiama Pasticceria Veneto, a Brescia... E hai l'imbarazzo perché è tutto buono, dalle torte ai cioccolatini, alle praline, anzi le praline si chiamano non cioccolatine, ho detto qualcosa di storpiato, le praline oppure che ne so il panettone e devo dire che le brioche al mattino, oh, che meraviglia. Perché dal punto di vista della panificazione, della lievitazione è veramente considerato veramente un personaggio straordinario, ma è evidente che non c'è solo lui, anche se poi è un po' come dicevo il numero uno, ce ne sono altri in Italia molto importanti, per esempio c'è un altro pasticcere a Padova che si chiama Biasetto, e Biasetto ha nel 1997, se non vado errato, è stato protagonista del campionato mondiale di pasticceria, perché ogni anno c'è un campionato mondiale di pasticceria a cui diciamo, partecipano le squadre. Quell'anno lì la squadra italiana, capitanata da Biasetto, ha vinto con un dolce e con una torta che è diventata un must per tutto il mondo, che si chiama Sette Veli. Assieme a lui gli altri due erano Beduschi e Mannori, che sono altri due grandi pasticceri. Bene, la Sette Veli è fatta di sette strati, ed è di una golosità incredibile. Io mentre parli sogno, dentro c'è proprio... cioccolato, nocciola, gianduia, insomma c'è di tutto, già a vederla al colore uno ha veramente la saliva in bocca. Altro che danza dei sette veli, torta dei sette veli, ma molto meglio. Si può fare la danza dei sette veli mangiando appunto la torta dei sette veli. E questo Biasetto c'ha anche un altro dolce che è diventato molto famoso, che si chiama Abbraccio di Venere, ma un po' l'Italia è sparsa, il nord soprattutto diciamo è cioccolato, nocciola, ebbene abbiamo Castagna, un cioccolatiere di Giaveno in provincia di Torino che è un grandissimo, anche questo della cioccolateria, un altro che addirittura fa sculture in cioccolato a Vicoforte in provincia di Torino che si chiama Silvio Bessone, e visto che ho chiamato quell'area do un'altra pasticceria che è una delle mie preferiti in assoluto, è la pasticceria di Marco Vacchieri a Rivalta, che si chiama Dolci Tentazioni, ecco, che fa delle meringate da urlo, allo champagne, alla fragola, a tante altre specialità, e devo dire che è talmente golosa che mentre ci penso, mentre ne parlo, Mi ricordo il dolce, mi ricordo la goduria. Beh, di su meringata allo champagne posso avere un mancamento, Davide. Ecco, guarda, vai a Rivalta, oppure chiedila, forse te la spedisce anche, ma fa anche delle praline strepitose il Marco Vacchieri. E poi ancora, per proseguire, diciamo, c'è un altro pasticcere che mi piace molto che si chiama Rinaldini a Rimini. Lui è considerato lo stilista della pasticceria. Perché lo stilista? della pasticceria, perché lui fa dei cataloghi a seconda delle stagioni, così come fanno gli stilisti. Fa le collezioni dei dolci? Esattamente, degli estati inverni. Quindi di una fantasia, di una creatività. Anche lui è stato giudice con Biasetto in questo talent sulla pasticceria. Ecco, però per tornare un po', ho già dato diversi nomi, posso dare anche Achille Zoia, che è Concorezzo, per esempio, un altro bravissimo che fa un panettone, in questo caso si chiama panettone paradiso, con noci e gocce di cioccolato. Però voglio anche così sottolineare un fatto importante, che la pasticceria è ritenuta dai pasticceri una scienza esatta. Certo. Cioè, non è come la cucina, che c'è molta creatività. Sì, c'è creatività nel creare il nuovo, ma anche il nuovo ha delle basi scientifiche molto importanti. Non è un caso che un professore di chimica dell'università non mi ricordo esattamente l'università di Dario Bressanini, però Dario Bressanini è il professore, ha scritto un libro che si chiama La scienza della pasticceria, ed è divertente perché in ogni dolce che lui presenta, cioè, cerca di scoprire cosa avviene, quindi il perché avvengono certi fenomeni, tant'è vero che lui parla della chimica del bignè, quindi questo per dare un'idea della scienza esatta. Non solo, sulla pasticceria ci sono anche alcune cose molto interessanti, molto divertenti. Ad esempio c'è un architetto napoletano che si chiama Fabrizio Mengoni, che ha scritto un libro sulla gnosonomia dei dolci, accostando i dolci a dei personaggi. Il libro è intitolato Di che dolce sei? Mm-hmm. E ti dico solamente un accostamento, l'accostamento di Monica Bellucci. Lui scrive: penso che Monica Bellucci assomiglia alla pasta reale, una candida, familiare, quasi religiosa ostia sorregge una base di marzapane. La pasta caratteriale della Bellucci è di marzapane. Del marzapane ha certo la gradevolezza che richiama quel desiderio infantile che ci spingeva a leccare la colla coccoina. Ecco, questo è uno dei una tanti. Sinestesia totale. Sì, mi è venuto in mente, Bressanini insegna all'Università dell'Insubria, ecco dove mi è venuto in mente, quindi là è un comasco. Dicevo che fa tantissimi accostamenti Fabrizio Mengoni, veramente molto molto divertenti, sia con attori, sia con sportivi, sia con politici. Quelli dei politici meglio lasciarlo stare, non sono molto divertenti. Devo saranno dire, meno dolci, non so, meno dolci, saranno un po' più amari talvolta. Come al solito. Poi ecco, andiamo in Sicilia, perché questo mio viaggio voglio proseguirlo in Sicilia. In Sicilia devo citare per forza, per la bravura, il Caffè Sicilia di Noto, dove questo personaggio, Corrado Assenza, coniuga veramente la scienza e la tecnica, è un personaggio un po' chiamato il poeta della pasticceria, e oltre diciamo a fare dei dolci siciliani, a cominciare dal cannolo, a usare molto le mandorle, a creare torroni, ma fa anche un gelato straordinario, quindi chi passasse da quelle parti sicuramente vada a mangiare il gelato in questo Caffè Sicilia, perché è veramente straordinario. Poi andiamo a Modica. Infatti quando hai detto Sicilia dolce, io penso o alla cassata o al cannolo o al cioccolato di Modica. Ecco, la cassata del Caffè Sicilia è veramente straordinaria. Andiamo a Modica in un posto storico, l'antica dolceria Buonaiuto. Ecco, dolceria, devo fare così una chiosa su questo. A Modica non si possono chiamare pasticcerie, proprio storicamente le chiamano dolcerie. Io avevo un personaggio molto importante che purtroppo ci ha lasciato, proprietario dell'antica dolceria Buonaiuto, che ogni volta che citavo pasticceria Buonaiuto si arrabbiava terribilmente e mi diceva: tu devi usare il termine tecnico, dolceria. Bene, con il cioccolato di Modica, come tutti sanno, è un cioccolato molto particolare, diverso da tutti gli altri, non si ottiene con il concaggio, e la dolceria Buonaiuto per la prima volta ha presentato un cioccolato mescolato al peperoncino, quindi che è stata una grande trovata che poi hanno imitato in tantissimi. È buonissimo. Sicuramente è buonissimo ed è straordinario. A me piace il cioccolato al peperoncino, mi piace anche il cioccolato al sale. Beh, cioccolato al sale è stata un'invenzione di un mio conterraneo forlivese. Ah. Sì, Sì, diciamo che la prima volta che è uscito questo cioccolato al sale è uscito con il sale di cervia. Certo. Quindi che era molto, molto più dolce, molto più dolce degli altri. E quindi diciamo che questa più che una pasticceria sono, come posso dire, a laboratori dove si produce del cioccolato, quindi diciamo che fanno pochi dolci, però lavorano molto sul cioccolato. Bene, io oggi però vorrei parlare anche di una cosa che ti avevo segnalato. Certo. Che è triste, molto triste, perché parlerò di due loghi dove il terremoto e la neve hanno distrutto tutto. Farindola e Campotosto. Perché? Perché in questi due luoghi, di questi due luoghi, io ho sempre parlato quando parlavo di giacimenti gastronomici. Anche nei miei libri che parlo di giacimenti gastronomici, mm-hmm, c'è sempre il pecorino di Farindola e la mortadellina di Campotosto. Allora dico subito che la mortadellina di Campotosto è conosciuta come i coglioni di mulo. Mm-hmm. Ecco, è conosciuta localmente, quindi non è che dico un'eresia. Coglioni di mulo perché? Perché è fatta di carne suina, però sono legate a due in forma ovoidale, e quindi di conseguenza diciamo che tradizionalmente e localmente si chiama in questa maniera. Anche il pecorino di Farindola ha delle peculiarità straordinarie, perché è l'unico formaggio italiano che viene, il caglio di questo formaggio è di maiale, mentre in tutti gli altri formaggi italiani di pecorino di solito ci sono altri tipi di carni e non il maiale. Certo. Quindi è una peculiarità straordinaria. Purtroppo se ne andranno questi due prodotti. Io spero che rimanga qualche traccia, rimanga magari qualche artigiano che si potrà risollevare. Io spero che ne sia rimasto ancora un minimo di laboratorio, di qualcuno che possa produrre ancora, perché sono una ricchezza di cultura materiale di quei luoghi, e se andasse dispersa veramente sarebbe molto, molto grave, così come quando se ne vanno delle persone. È verissimo, di più, è verissimo. Che ho scoperto che la mortadellina di Campotosto, nella storia c'è stata una diatriba fortissima con Amatrice per potersi prendere il merito e chiamarla, si chiamava mortadellina di Amatrice, si voleva chiamare, invece ha vinto Campotosto. Speriamo che possano ancora tornare a litigare bonariamente su questi. Lo spero veramente, ecco. Spero che questi due prodotti la gente non se li dimentichi, soprattutto i distributori, i commercianti, le boutique del gusto. Vero. Che magari se è rimasto ancora qualcosa gli diano veramente uno spazio, gli diano un diritto di precedenza, anche perché sono degli ottimi prodotti. Anche per questo ne ho parlato. Grazie Davide, è veramente un argomento molto importante. Teniamo d'occhio, perché mi piacerebbe anche riuscire a capire se davvero riusciamo a recuperare questa ricchezza non solo culturale ma anche economica di questi luoghi. Speriamo che ne avranno bisogno. Qualche SMS in proposito, che qualcuno possa farsi vivo e magari riprendere il discorso la prossima settimana. Grazie Davide, un abbraccio, grazie per queste segnalazioni dolci ma anche belle, coraggiose, di grande forza. Al prossimo sabato Davide. A presto.